Capitolo 20. Eltersdorf, autunno 1526. Riparo le stie per i polli, in previsione dell'inverno. Inchiodo le assi perché le bestie non soffrano troppo il freddo. La sera mi reimmergo nelle memorie. Ricordo che venne il tempo del fön, lo stesso che spira ora su un mondo diverso. Il fön, vento caldo, denso d'umido secrezioni che spira da meridione. Si insinua per la catena alpina e sfocia nei campi e le vallate, risalendo, col suo carico di umori folli e violente passioni per cui va famoso. Si impadroni di noi e di quell'inverno di febbre e delirio. Avvinghiò i nostri corpi in un fremito privo di controllo, prima di scagliarli in una danza di morte che incide ancora tutti quei nomi sulla mia carne. Nomi. Dei luoghi, dei volti. Nomi di morti. Li leggevo nelle scritture prima e saettavano fuori dai fogli racchiusi nei tomi, unendosi indissolubilmente alla gioia degli occhi delle sorelle, assumendo le espressioni luminose dei loro bambini, i profili affilati, ruvidi, di contadini e minatori liberi nello spirito di Dio. Jacob, Mattias, Johannes, Elias, Godrung, Ottilie, Hansi. Nomi di morti adesso. Non avrò più nomi, mai più. Non legherò la vita al cadavere di un nome, così li avrò tutti. Oggi sono vivo per ricordarli, e posso ascoltare la pioggia battere sul tetto, mentre un altro autunno si consuma sotto l'incalzare del tempo ed Eltersdorf si prepara a ricevere la prossima neve, il gelo, dopo quest'ultimo alito caldo. L'ottobre del 24 finì con un'altra espulsione extramuros. Stavolta si trattava di Norimberga. Da circa una settimana i due addetti della stamperia di Hergot ci avevano consegnato il frutto di notti senza sonno e giornate di lavoro furibondo. I due scritti che il Magister aveva portato con sé da Mühlhausen. 500 esemplari della esplicita messa nudo, più altrettanti della confutazione. Inoltre, le modifiche apportate al metodo di composizione dei quarti di pagina ci avevano fatto ricavare diverse migliaia di fogli separati di piccole dimensioni, sui quali era riprodotta una versione brevissima del nostro programma, insieme a incitamenti rivolti soprattutto alle donne e alla benedizione del Signore, che ci avrebbe protetto anche con la spada se necessario. Avremmo potuto distribuirli liberamente durante gli spostamenti tra campagne, borghi, contadi. Dopo una discussione, non priva di momenti di ilarità, decidemmo di chiamarli Flugblatt, proprio per via di quella caratteristica di fogli singoli dalla forma ridotta, che potevano passare agevolmente di mano in mano, adatti alla gente umile, in una lingua semplice, che molti avrebbero compreso direttamente o facendosene dare lettura da qualcuno. Quella settimana era trascorsa tra il via vai di emissari e corrieri che garantivano il primo giro di distribuzione dei testi del Magister in varie regioni. 100 copie erano già state spedite ad Augusta, ma il clima cittadino non era molto rassicurante. Grande scalpore aveva suscitato, ad esempio, l'ennesima impresa di Denk, che il 24 o il 25 di ottobre aveva arringato oltre ogni misura gli studenti di San Sebaldo, con aperti inviti a far strage di chi si arrogava il diritto esclusivo di interpretare la parola di Dio. Discorso al termine del quale Johannes La Volpe, con una tipica improvvisazione, si era autoproclamato rettore della scuola stessa, acclamato dagli studenti entusiasti. Tutto ciò era piaciuto molto poco alle autorità locali, pressate anche dalle notizie incessanti sul dilagare di rivolte nella selva e in tutte le regioni circostanti, per cui fin dal giorno successivo si era sparsa la voce di un'imminente cacciata di Denk dalle mura cittadine. E così fu. Il 27 ottobre il carico di libri di fratello Holzen venne fermato alla porta Splitter, mentre usciva dalla città per dirigersi a Magonza. 3 volumi, le guardie del consiglio cittadino, evidentemente già messe in preallarme, trovarono 20 copie dell'esplicita messa nudo. Sequestrarono tutta la partita e scacciarono in malo modo Holzel, che aveva ricevuto dal Magister il compito di diffondere e ristampare lo scritto. Nell'arco della stessa giornata, la voce sull'imminente espulsione di Denk divenne certezza. All'alba del 28 eravamo già tutti in arresto. Agli sbirri sarebbe occorso ancora un giorno intero per rintracciare il nostro deposito. Hergot era tornato, non aveva esitato a denunciarci e a permettere alle guardie di interrogare a lungo i due apprendisti. L'intera tiratura venne sequestrata. Solo Hut, il giorno prima, era riuscito a far trasferire a Bibra i fogli volanti, insieme ad alcune copie degli scritti del Magister. Il consiglio non voleva guai. 2 borgomastri ci fecero visita a tarda sera nella cella e ci comunicarono che la decisione era stata presa. Prima dell'alba ci avrebbero condotto fuori città, senza dare notizia dell'arresto e dell'espulsione. Magister Thomas, Hottiglie, Pfeiffer, Denk, Hutt, Elias e me. Ci ritrovammo di nuovo sulla strada, a contemplare lo spettacolo incredibile dell'alba che spuntava, timidamente, dietro i pinnacoli di Norimberga, tingendoli di rosa. Questa volta il Magister non sembrava affatto turbato dagli eventi. Hutt ci condusse a casa sua, a Bibra, a poche miglia di cammino, un posto sicuro in cui decidere il da farsi. Lì, il Magister ci disse che era necessario separarsi, e questo ci inquietò non poco. L'aver condiviso le disavventure degli ultimi mesi ci aveva affiatato molto e sembrava assurdo sciogliere la compagnia. Ricordo la determinazione nei suoi occhi. «Lo so, ma noi sette dobbiamo fare il lavoro di 100», disse, «e se resteremo tutti uniti non ci riusciremo mai. Ci sono compiti che hanno la priorità assoluta e che dobbiamo suddividerci. Il tempo è maturo, gli empi possono essere messi alle strette. Mezza Germania in rivolta, non c'è un attimo da perdere». Si voltò verso Hutt. «Innanzitutto è necessario assicurarsi che almeno i libri spediti ad Augusta siano giunti a destinazione e cercare di diffonderli il più rapidamente possibile». Hutt annuì, senza aggiungere nulla. La missione era sua. Il Magister continuò. «Per quanto riguarda me, è di vitale importanza che raggiunga Basilea. Devo incontrare Eco Lampadio e verificare se davvero la situazione è così fervida come mi hanno scritto i fratelli di laggiù. Se la più importante città della Confederazione Elvetica passasse dalla nostra parte, i principi avrebbero vita dura». Il suo sguardo cadde su Denk. «Credo che tu, Johannes, dovresti venire con me. Hai già operato in una grande città e il tuo consiglio sarebbe di grande aiuto». «E noi altri?» Pfeiffer, sempre preoccupato. «Dove ci andremo a ficcare?» Magister Thomas raccolse un pesante sacco di juta e lo aprì sul tavolo, quanto bastò per rovesciare parte del contenuto davanti ai nostri occhi. I fogli volanti scivolarono sulle assi come se una mano invisibile li muovesse. «Ecco i semi. Le campagne saranno il vostro campo». Il mio sguardo disorientato incontrò quelli di Pfeiffer e di Elias. Ottiglia raccolse alcuni fogli. «Certo, i contadini, guardò me. Devono poter sapere, bisogna fargli sapere che i loro fratelli in tutta la Germania si stanno sollevando. E per chi non sa leggere, leggeremo noi. Poi, rivolta a Pfeiffer, un esercito, Heinrich, un'armata di contadini che liberi palmo a palmo questa terra dall'impietà». Cercava l'approvazione del Magister. «Marceremo coi contadini su Mühlhausen. Là c'è ancora molta gente che vuole spezzare il gioco dei tiranni e dei falsi profeti». Sentì il calore del coraggio che mi gonfiava il cuore. I muscoli e gli occhi e le parole di quella donna accesero un fuoco che pensai niente e nessuno avrebbe mai potuto estinguere. Indicandoci, Magister Thomas si rivolse a lei con un sorriso e disse: «Moglie, affido a te questi tre uomini. Fa che li ritrovi sani e salvi al mio ritorno. Dovrete essere prudenti. Gli sgherri dei principi sono sguinzagliati per il contado. Non fermatevi mai. Non dormite mai due notti consecutive nello stesso posto. Non fidatevi di nessuno il cui cuore non sia per voi come un libro aperto. E confidate in Dio, ogni momento. Sua è la luce che illumina il nostro cammino. Badate di non perderla mai. Confido che in capo al nuovo anno ci ritroveremo tutti alla chiesa di Nostra Signora in Mühlhausen. Buona fortuna e che il Signore sia con ognuno di voi».